questa, che quel fatto, che questo rispetto sia, sia reciproco, mi segui. Si va d'accordo, ma si va d'accordo una vita. Io conosco persone da 20 anni già, colleghi di lavoro che abbiamo avuto sempre buoni rapporti, persone educate, persone tranquille, che quando mi vedo o mi sento è sempre felta, è sempre buon umore, però anche loro dicono: ah, io sto bene. Ho le persone che si fanno gli affari suoi, come uno rimane amico fino anche dopo la morte, perché così. Però ho conosciuto persone che si facevano vedere tutto un più, c'è un amico mio, c'è quello, c'è quell'altro, poi hanno scocciato, ho fatto ascoltare un attimo, però non li conoscevo un mese, no? La mia vita, in un mese mi ho visto 10 volte, come fai tu a essere, come tu reputare una persona amica? Ma tu hai idea di cosa può essere un amico? Ma per me, fini mira, ma smettila, ma a me le favole, le telenovelle non mi piacciono, a me la telenovela non mi piace, quindi fattene per gli affari tuoi, con me se ti vuoi prendere un caffè, vuoi passare, vuoi mangiarci una pizza, ce la passiamo, perfetto, però fattini gli affari tuoi, li dosi due, a me, fermami di cercare, però fatti gli affari tuoi, ma sì. Io la visita la do a chi se la vita, a chi se la vita, a chi non se la vita, ce la manda in quel paese, capito? E vabbè, le fregature se ne hanno sempre la vita, capito? E bisogna stare sempre con i piedi di piombo, perché quello che tu di più amico dopo ti dà la pugnalata, è sempre così. Lo so Gianni, lo so, ma siccome io conosco anche la parte brutta del mio carattere, no? La parte brutta, quindi per evitare queste cose qua, perché siccome ho famiglia, perché non mi voglio compromettere con nessuno, ma sono sempre stato così, non mi metto per gli affari miei, a volte mi chiamano, ma non vieni, non ci vengo, ma non ci vengo, non mi chiedere cose, perché a chi non va giù di lì e non a giugare, a volte anche la mia compagna, io usciamo, non ho voglia, vai tu, ma caspita, avrei qualche volta già, ma non ho voglia, vai tu, io ho già i rompimenti di scatole, ce li ho a sangue, quindi non voglio avere problemi, quindi me ne rimango a casa, tranquillo, lontano da tutti, e me ne sto tranquillo e sereno, però capita, lasciate i rompimenti di scatole, ti compromettere queste cose qua. Uno dice: ma là non devi più uscire. No, non sono più felice di prendere e fare contatto con le persone, perché le persone sono diventate matte, non vuoi più un paio di mondo sano, non vedi? Tu parli con una persona che si gira e ti dice: ma comunque così, ma se io ti sto parlando di una cosa e tu mi dici poi mi dici che fate c'è problemi tu, ma di cosa mi stai dicendo? Ascolta, vai, curati. Sì, è successo anche a me, con una persona. Ho visto questo tipo nella rotonda una volta, non sai, io sono appassionato di pesca subacquea, di pesca, mi piace. E pensavo che fosse uscito, da pescata, e per me qualcosa si vede. E questo qua ti dice, e lo so di trappi, come se l'avessi chiesto questa cosa, vabbè. Ah, non si è entrato, non pensavo fossi già entrato, e lì ho detto qualche volta, pescavo buco, prendevo bucconi e cose, ecco una remi che mi piglia di bucconi, ma tu non permesso che io piglia di bucconi, io faccio un permesso, ma asco fa una cosa, vai, gira, vai, che se con gente come te non si può parlare. Sì, ma infatti, vuol dire che ci sono, perché ci sono persone matte. Ci sono persone matte che poi quelle sono le prime che, vabbè, ma vai, guarda, non ti puoi fidare, guarda, non ti puoi più fidare di nessuno. Io già poi sono alle prime le quattro parole, perché piglio e secondo momenti mi gira, già io piglio, ando il becco dei bassoni, e la buso a fare i dedi. Buono e bravo, quello che vuoi, però poi io vengo e ti cerco, è così, purtroppo Gianni è così, perché è un casino, caspita, guarda che le prese per il culo sono brutte, soprattutto se tu ti comporti bene con tutti e poi loro cercano di fregarti, le prese per il culo, scusando la parola, sono brutte, e le persone brave poi girano male, vengono, cercano e poi dice, ma quello, ma caspita, tu non pensavo che eri così, non pensavo che eri così, però anche tu devi pensare, quando prendi per il culo la persona sbagliata, provare reazioni brutte, ma c'è molta gente che ne sta approfittando, perché stiano attenti, perché stanno succedendo delle cose brutte che stanno prendendo in giro persone sbagliate. C'è gente che sta prendendo in giro delle persone sbagliate, per esempio anche in questo mondo qua, delle radio, c'è gente che vuole prendere in giro delle persone sbagliate. Quindi che abbiano la cosa e ascoltino questo messaggio che sto mandando, non è riferito a me, no, perché io non c'entro niente, però ci sono persone che stanno sbagliando di brutto con persone che non c'è da giocare, le persone brave che non c'è da giocare, che si poi vanno, la cercano, li gazzigheggiano e so fare i dedi, capito già. Ci sono molti affarizi in giro che vogliono la roba e vogliono vendere attrezzature strane, radio, queste cose qui. E stiamo attenti a non giocare con le persone sbagliate, perché secondo il giorno che queste qua si girano, sono affari loro. Ma Gabriele, io penso una cosa, che la radio deve essere una cosa per rilassarti e per stare bene, una cosa piacevole, farti una chiacchierata come ce la facciamo noi, senza stare a stressarsi, a bisticciare, a fare giaramenti, sfidarsi come ti fa giovedì ieri. Sì, ma infatti no, ma io non è che sto dicendo niente, però giusto per il fatto, siamo nel discorso di queste, che uno prende e dice amico qua, amico là, no? Ci sono amici che sono a comodità, già, mi segui. Però bisogna anche stare attenti con le persone si fanno i scemi. Siccome non trovate con chi fare lo scemo, ma a te ti piace se magari uno di voi ti vuole prendere in giro e poi ti dice amico qua, amico là, poi ti prendi in giro, tu ti arrabbi già, interrogativo. È ovvio che va a dire, è normale, ma specialmente se tu ritieni amica quella persona e poi ti prendi in giro, capito? Sì, ce ne sono molte che sono opportuniste, ti cercano solo quando hanno bisogno e poi non ti cercano più. Esatto, quindi la persona opportunità bisogna anche prendere e mollarla, no? Bisogna anche mollarla. Se l'opportunità vede, cioè per esempio, se io sono opportunista e tu vuoi essere lasciato in pace da me, mi dici mi molli, non mi dici vabbè lasciami fare in pace, se io continuo, alla fine io prendo e ti dico fa una cosa, io ti rispetto, però però vabbè, saranno cose, se la vedranno, si vedrà. Tutta la gente, tutti, tanto guarda Gianni, ti posso dire una cosa, tu sei più grande di me e lo sai meglio di me, mi puoi insegnare modi di vita, perché sei più grande di me, può essere anche mio padre, però io ti posso dire solo una cosa, che fino a oggi non mi sono mai sbagliato, fino a oggi faccio comportandomi come mi sono sempre comportando, con l'educazione, con le cose, con le dovute maniere, non mi sono mai sbagliato, e però non mi sono sbagliato mai anche facendomi rispettare quando mi hanno calpestato i piedi, mi segui? Sì, è giusto, diciamo così, è giusto, io Gabri ho l'età di tuo padre, io ho 63 anni. È positivo. È entrato Franco da Sorso. Buonasera Franco, ben sentito come sempre, in compagnia di Gianni Rotorum e in compagnia di tanti ascoltatori che non vogliono entrare, però tu sei stato uno dei più coraggiosi a farti avanti. Ciao Franco, buonasera, riprendi Gianni per i saluti a Franco. Ciao Fra, ciao, ben sentito, buonasera. Ciao Gianni. Guarda, io non è che sono stato coraggioso, io mi stavo ascoltando. stanno dall'inizio, diciamo che stavo mettendo dei dati nel computer e avevo bisogno di stare un po' senza distrarmi. Adesso ho finito e sono entrato. Adesso, prima di andarmene già entro a salutarmi. Vuole, stiamo affrontando un discorso un po' tranquillo, sereno, e però ormai per entrare in radio tutti ascoltano, ma nessuno entra, quindi si parla più di coraggio che di altro, quindi non ripieni fra. Ciao, come ti stavo dicendo, quello che hai detto tu si chiamano amici a convenienza. Tra l'altro sono... ripeto, non sono amici. Vabbè, comunque. Vai Gianni, riprenditela. Il mondo è così. È una giungla. Bisogna sapere catalogare bene le persone, capito? Così. È una giungla. Perché bisogna saperci vivere. Infatti già. Io ne ho tanti. Gli amici proprio sono amici di data di 40 anni, 45 anni fa. Poi gli altri, come ha detto Gabino, non sono amici, sono conoscenti e basta. Infatti, amico è quello che ti aiuta al momento del bisogno, che ti sa ascoltare quando ti c'è problemi. Ecco, quello è il vero amico. Non è uno che esce insieme a tirarti il caffè e basta, non è un amico quello. No, l'amico è quello che ti regala salsiccia, formaggio, ricotta musa, quello è un amico. Vero, Gabriele? Salsiccia, formaggio, vino buono, vino rosso, vino tutta qua vita, quello è un amico veramente, quello è un amico. Riprendi già. Adesso stai facendo tu l'opportunista allora? Per il formaggio, la salsiccia e queste cose sempre. Cappa. Vabbè, il mondo è bello perché è vario, capisci? Non tutti hanno i valori, a me mi sono stati trasmessi i valori dai miei genitori, il valore dell'amicizia è un valore grande, se lo sai gestire bene, se viene gestito bene l'amico, è un amore fraterno, dai. Però deve essere così. Poi tutto il resto è noia. Esatto. Beh, adesso ti dico una cosa, adesso devo andare a mettere la cena ai miei due amici miei. Vabbè, gliela metto perché quelli sono due amici veri, Già, quindi non ti tradiscono mai. Rientro subito, datemi 5-10 minuti al massimo e poi rientro. Ripieni Franco. Capo. Va bene, dai, Gabi. Quelli non ti tradiscono mai, anche se non gli dai da mangiare, ti mettono sempre appresso. Quello è vero, Io il mio amico ce l'ho qua vicino a me adesso. Drummido, mi buco. No. non so. Quelli sono affettuosi. Adesso i cani sono tutti affettuosi. Sono anche intelligenti, molto più di noi, dai. Sì, i cani hanno sentimenti, hanno tutto. Se si mettono anche a piangere. Io ho visto un cane con le lacrime vicino alla barra del padrone che toccava, non si muoveva, il carro funebre fermo, aspettando che lui si spostasse per scaricare la barra. Ma ti immagini? Sì, ma non l'hai visto? Su Facebook a volte mettono le bare che c'è il cane che il padrone è morto e lui con il cattolo nella mano vicino alla nicchia. Sì, sulla tomba, sì, li ho visti. Ci sono cani, per dire, quando un cane l'hanno fatto vedere l'ambulanza portando via il padrone e lui ha preso, al semaforo si è messo a abbaiare, gli hanno aperto lo sportello e è entrato dentro. Capro, dimmi, da pisciglia, vince il semaforo. cani quando ti mettono affetto quelli non ti tradiscono, quelli sono proprio sono dritti, ma vogliono così, gli animali vogliono così. Poi il cane dipende anche dal padrone, se il padrone lo educa bene cresce bene, se no può crescere anche male. Il cane per me ha una vita troppo breve per quello che dà al padrone. Quello sì. Però vedi, dovrebbe essere quanto che campano i cani? 25 o 20? No, dipende dalle razze. I cani piccoli campano sempre più di grandi. Le razze, il mio per dire dura dai 9 ai 10 anni, così c'è scritto su internet, dipende dalle razze e anche dalla stazza del cane, capito? Ci sono cani che muoiono vecchissimi, proprio 21 anni, 22 anni, però poi alla fine non riescono più a camminare, li devi prendere in braccio per portarli giù, non ce la fanno manco a fare i bisogni, te li fanno in casa, diventano proprio praticamente non sono più dipendenti. Quando invecchiano anche loro sono così già, purtroppo. Però già ho visto qua ce n'era uno che a me c'aveva 25-30 anni quel cane. Guarda a quanto riusciva a camminare, piano piano, vedevi, se tu gli dicevi passa via, si girava, ti guardava, come stanco, ti guardava, diceva no, non c'è per voi. Ma era un cane che c'era il padrone? Sì, il padrone c'è qua, c'aveva qua, c'è morto. Sì, diciamo che i pastori tedeschi campano di meno, campano poco, perché sono razza grande, campano di meno. I cagnoli di quelli bastardini piccoli campano bene. C'era Leone, un cane che aveva questo amico mio, che lo chiamavano Leone perché era piccolo, capito? Era preso in giro il nome, lo chiamavano Leone per quello, ha campato 22 anni. Vedi. Sai cos'è già? Che il pastore tedesco c'ha un problema già, ma io pensavo che era uno così, però il pastore tedesco quello lì, c'ha problemi alle gambe di dietro, già. E arriva a una certa età e comincia a crollare. E anche la displasia dell'anca, hanno anche la displasia dell'anca certi pastori tedeschi, e si girano le zampe, praticamente anche quelli di Amara. Capo, sì, infatti noi ne abbiamo uno qua, non è mio, è di mio cognato, ma è bello, bello, adesso c'ha, avrà un 2 anni, neanche, non avrà neanche 2 anni. Cancella comincia a giocare. Soffrono anche di udite i pastori tedeschi. Non lo so, io non ne ho mai avuto cane, non ne ho mai preso uno, ma c'è perché un cane io la penso diversamente, ci vuole posto per girare un cane. Il cane deve avere spazio, non chiuso in una cameretta. No, è mia casa. E mia casa c'ha due terrazzi, lo portiamo molto giù, quindi già gira, non è che sta sempre in cameretta. No, il mio gira tutta la casa, prima cosa, poi quando vuole va in terrazza, sono le finestre aperte, va in terrazza, si affaccia, si guarda gli altri cani che passano, li abbaia, li bagna. E no, non c'è abbastanza libero il cane, certo non ha lo spazio di una campagna, però il cane in campagna porta anche problemi, si mettono i polassacchi, si attaccano le zecche, eccetera, eccetera, pugi, tutti di sono entrato? Avanti, sì, in campagna è tutto diverso, però adesso controllati Sì, già. Io guarda, mi do adesso le prendo, non mica adesso da questo mese bisogna, anzi me ne sono ricordato, devo chiamare il veterinario e gli do le pastiglie io a loro, gli do le simparica trio, quelle 40-60 per cani adulti, gli do a metà, e ne do metà una e metà all'altra, all'altro. Lo coprono per un mese e gli fanno tutto e zanzare zecche. La zecca è amorfica, si attacca e si secca, non vive, mi segue. E i forassacchi, purtroppo i forassacchi lì rimangono, i cani d'estate rimangono in un recinto grande, però non possono correre, ma e per il suo bene, perché come ben sai non è che possono fare tante anestesie per prendere e togliere fuori a sacco, le prendi? Sì, sì, vabbè, tu una cosa diversa, capi, tu li tiri bene i cani, però in certe campagne si ne affrontano bene, li dai a mangiare la cetta sporca, io ho visto in certe campagne i cani che si sono trattati brutto come maiali, gli danno gli avanzi da mangiare, non li trattano bene, sono pieni di quei cosi rotondi che si attaccano, che hanno delle spine corte corte, non so se ce ne ha presenti, quelle palline rotonde. Sì, sì, positivo, sì, già ce l'ho presente. Tu pensa quanto sono trattati i cani miei, quanto sono trattati male i cani miei, Manuela li fa da mangiare, la pasta gliela fa fresca ogni notte perché loro mangiano l'umido, mangiano la pasta una volta al giorno. Io vado all'Eurospin, li compro il sacco della pasta, quello sacco di colazione, li compro il sacco della pasta, la trippa, il wurstel, mangiano la carne, mangiano tante cose, mangiano anche avanzi perché purtroppo a casa non si butta niente, mangiano anche avanzi. Però la pasta la facciamo fresca ogni notte, pasta bollita, pasta bianca, condita con quello di giù, però la pasta ogni notte, e ti ripeto, gli ho tolto le crocchette perché stavano un po' sordi, perché avevano sempre da mangiare e stavano diventando i padroni del mondo, quindi per educazione li si toglie, così capiscono anche chi è il capobranco, a volte bisogna essere anche un po' duri con loro. Sì, se loro prendono, io per dire il mio, prima di entrare lui in casa entro io, se entra l'ascensore prima entro io e poi lui, capito? Mai prima lui, perché poi si crede il capobranco e domanda entro, lo so, è così, perché loro lo fanno per istinto, mica per male, lo fanno per istinto, quindi bisogna anche abituarli bene. Sì, capi, io ma appena avanti intendo ossa di pollo, tutto dice che vanno in usci e cose glielo danno. Io ho visto certe campagne, gli hanno mangiato il pollo, gli hanno dato le ossa del pollo da mangiare, ma non li fa male, no, loro sono abituati, io non mangiano tutto. Eh sì, mangiano tutto. Sai che io a volte accendo il fuoco e gli faccio giusto l'arrosto. Io a volte accendo il fuoco, gli faccio giusto l'arrosto, cioè guarda, non è che accendo la forza, però quando faccio la carne arrosto, io gli faccio giusto da loro, me li prendo due pacchi di giusto e quelli da lui, ci prende sul fuoco, sulla brace, tagliati e messi da mangiare. Sono trattati così, sono trattati bene. Ossa lì non ne mangiano perché ossa non ne do, perché no, a parte il fatto che non mi va a me a dargliele perché mi fanno male. Mi do giusto qualche osso grande per farsi denti, ed è giusto perché il cane li mangia, il cane le ossa grandi deve mangiare, però ossa piccoline è zero, ossa piccoline è zero. E prendi Franco. Guarda già, che prima io parlò, ero un ragazzo, i cani ce l'avevamo tutti, ma non uno, anche tre, quattro, ed erano, hanno fatto bravo, giravano tutta la frazione lì, era tutto bello come tu sai di dove sono, e venivano a casa a mangiare, e per quello non erano sani. Tutte le volte che ce li hai a casa per le mucche, per il cavallo, oppure per l'asino, per i maiali. Mi sembra che veniva una volta al mese, veniva e controllava queste cose, il veterinario. Controllava anche i cani, se c'era qualcosa che ci aveva qualcosa. Il veterinario gli diceva: mio padre, prendi questo e daglielo. E lo prendeva e lo curava lo stesso. Non è che adesso sono, perché sono più signori i cani che sono dentro casa, è diverso. Non è diverso, è uguale. Beh, c'è chi ci tiene, chi non ci tiene, c'è sempre stata una persona che se ne frega, un collega magari anche pure avendo lì in campagna ci tengono come capito. Naturalmente se in casa il cane viene più seguito, se tu lo lasci andare così come hai detto, è stato bravo e cose del genere, ti accorgi meno delle cose. Io in casa, per dire, quando lo spazzo, lo faccio, lo controllo tutto, io la mattina li pulisco gli occhi, li pulisco il muso, li pulisco le orecchie, come un cristiano, li pulisco tutto con le salviette, con tutto il corpo con le salviette, li pulisco il pisellino, il sederino, tutto, poi lo spazzo e poi lo farlo libero. Una volta che ho fatto tutte queste cose, dopo che sono tornato dalla porta in giro, lo libero pure e lui è tranquillo. Vabbè, pulirlo è naturale, che se lo tieni in casa, si siede sul divano, è naturale che si deve pulire. No, sai che cosa? Purtroppo anche prima li curavano lo stesso, li tenevano sotto controllo i cani, anche se giravano, io ti stavo dicendo, solo quello, però i cani sono sempre stati allo brado, dove c'hanno una campagna, c'è una campagna, c'è il corso, i cani girano e stanno anche meglio, stanno, avanti capito? Sì, sì, no, i miei sono, ti ripeto, sono liberi, però sono tornati bene, prendiamoli, curiamoli, facciamo, però devono fare il suo lavoro. Devono fare il suo lavoro perché un cane deve lavorare. Il cane, se il cane lo tiene in monotonia, si stressa, mi segue. Il cane in campagna, almeno, se è abituato a tenere la tua casa, è abitudine e rimane tranquillo. Però se un cane, soprattutto come quelli che ho io, devono lavorare, devono fare attività fisica. Tu pensa che il cane che ho io fa è un cane che copre 4 ettari di terreno per guardia, per diciamo, che lui gira 4 ettari di terreno. Io ne ho 7.000 metri, questo cane qua a volte prende anche stressato perché è fermo, però lui prende, fa attività, rompe le scatole, fuga, apri, invade, e a volte viene dentro casa e l'altro, il piccolino, lo sta seguendo, quindi sono cani che sono impegnati, mi segue, però sono tenuti bene perché li controllo, li faccio, anche se magari mi sgrido perché sono troppo invadenti, però li controllo, rimangono tranquilli, sono bravi, però sono sempre cani di campagna che devono fare il suo dovere. Certo, però vedi che se ce l'hanno possono girare, a fare e via. E io stavo dicendo a Gianni che il cane, io non ho mai avuto il cane qua perché non me lo sono mai preso, perché a me tenere il cane in un appartamento e a tenerlo legato non va bene. Il cane vuole spazio, molto spazio, deve camminare, girare. Sì, beh, dipende anche dal tipo di cane che prendo. Il tipo di cane che ha Gianni è un cane, per quanto lo vedo io, abbastanza un cane domestico, a casa sta bene, però fa tutto l'immagine a me, io con un pastore fornese o un pastore tedesco tenendo in casa, ma te l'immagini come sono, come sarei io. Questi distruggono tutto, avanti già. No, non mi sono allontanato, ho sbagliato il microfono. Stavo parlando con l'altro microfono, sto parlando con il Galax. E niente, no, pastore tedesco. riesco a stare in casa, non va bene, sono troppo grandi come cani, in casa ci vanno o cani piccoli o cani di media taglia, appunto, non ci vogliono cani grandi. Su quello stile ti do un retta. Sì, già, io ho preso un cane e ho preso i cani la forza per la campagna, perché se avrei voluto un cane per tenere in tua casa avrei preso magari un chihuahua, avrei preso un pincher, un chihuahua feroso. Ma poi sarei alla campagna, ho detto, te lo prendo, io voglio il cane, le madre gli ho detto, che cane vuoi? E mi piacerebbe un chihuahua feroso, perfetto, sono andato a Rune e l'ho portato un pastore fornese. Quindi non c'è problema per quello, ma tu non ci vuoi peloso, perfetto, adesso te lo porto io, ci vuoi peloso. Sono andato a Rune e l'ho preso un bel pastore fornese di quelli belli, 50 kg di cane, 53 kg anzi, 53 kg di cane, tutto bello che quando piove si mette, si rotola nell'erba, stamattina stava piovendo ed era tutto arrotolato nell'erba, l'altro era coricato in mezzo al fango, però poi tremano, stanno di nuovo sotto la pioggia e loro sono contenti, sono felici e tutto va bene, quindi gli ho fatto tutto un bel regalo. Poi tu se trai tu in casa ti faccio un casino. Voglio sentire a Manuela quello che dici. No vabbè, tiriamo la porta a chiave, perché quando è così tiriamo la porta a chiave, però adesso preso prima di farli entrare stanotte, perché c'è freddo fuori stanotte, quindi li faccio entrare dentro, io freddo, li pulisco, li faccio e poi vieni, io prendo, li controllo se sono, ma sono, perché sono puliti, che alla fine il cane pulito, alla fine sono cani puliti, prendo, li metto il timone per terra, metto il pledo, metto le sedie in modo che non vadano magari sul divano, queste cose qua, e li lascio elicoricobili in sala. Ma a volte alle 4 del mattino ti senti facendo rumore che vogliono uscire, prendili liberi, capito, rimangono 2 ore, 3 ore dentro e niente, poi se ne vogliono stare fuori. Ma un conto è voler uscire loro, vuol dire che vogliono andare a fare bisogno, queste cose qua, un conto è lasciarli sotto la pioggia così di notte, sotto il freddo, quello non va neanche a me, quello non va neanche a me. Sì, ma sono cani che sono abituati, capito? Sono abituati a quel tipo di vita, non temono nulla. E perché i cani randaggi campano un sacco di anni? E mangiano mondezza, mangiano tutto, però è una questione di abitudine, come ti rizzingari, se non vanno una malattia rizzingari, eppure sono sporchi. Ma il zingari non ha attaccato manco un coronavirus, capito? Tu non zingari malati, non vedi mai, perché loro hanno lo squame come il pesce, loro se tu hai dei bigli e gli vrei una rasoggia, se tu allora prendi li freghi il coltello come quando squami il pesce, no, sulla pelle, quindi tutto lo tratto, invece proprio lo squame, tutti mi cazzano, invece sono rosa sotto, sono rosa, hanno 10 strati di sporco, quindi neanche quando sono nati li hanno lavati, mi segui, perché sono proprio, io non sono un razzista, perché io ho molti amici, molti conoscenti che sono di colore, ho qualche conoscente che anche diciamo, come si suol dire, per non essere razzista, che è bisex, che se ne intendono tra uomini, o qualche amico, qualche conoscente così, però proprio di zingari sono razzista, sì, per i zingari io di zingari non li posso vedere, li avrei proprio sparati, ecco, voi avete proprio che sono sparati, e poi li fa. Ecco. Sai già, mio padre cosa diceva quando andavamo a mettere a mangiare i maiali e cose così, che gli dicevamo, papà, ma quei maiali sono, vedi che c'è un po' di fango lì quando pioveva, fuori, ci lascia le cane in salto, un litro in grasso. Vabbè, non lo so, dicono così, vabbè, già lo so che dicono così. Io gli zingari non so se non li busso via, ma una amica mia era fermarsi a semaforo, li bussano il vetro, abbassa, dare qualche soldo, e detto, ma non ne ho di spicciolo, l'ho preso pure la sputata in faccia, che schifo, è già lo spito fa schifo, più fatto dallo zio. Aisha va a curare che cosa faccia e avviati. E l'aveva gazzicata con la macchina, se aveva fatto una cosa del genere. No, che allora i problemi ti arrivano a te. Ma cosa dalla macchina me ne hai preso di pesante, se avrei avuto una cosa di pesante io l'avrei gazzicata in faccia, me ne sarei andato. Ma per cortesia già l'Italia, se ripeto, quelli sono il cancro della razza umana. Il cancro della razza umana. Riprendi. E intanto un cancro, disordine, pure i casi popolari, a vari disordine, i clienti. Esatto, risolvere il buco dei gasi popolari. No, non c'è quello, è bonus del comune, bombole pagate, è gasolio, loro lo sapete che lo pagano meno di noi, perché ce lo mettono di tasca, lo pagano con i soldi, lo pagano uguale a noi, però siccome hanno questo aiuto della comunità europea, loro vanno al fornitore, quando è aperto lo pagano non so quanto, con qualche agevolazione. E niente, tu lavori da solo, tu devi mettere a prezzo pieno, mentre loro lo usano per andare a rubare, per andarsi in giro, sono una massa di miserabili, quindi non vedi perché non li posso vedere. Non fa cambio il buono. Fare il reddito di cittadinanza. Esatto, reddito di cittadinanza, aiuto vicenziani, aiuto quello, aiuto quell'altro, aiuto Caritas, aiuto di tutto, poi trovi i buonisti che gli danno le 20 euro sotto il banco, lasciate lì dove danno un ferro, poi lascia perdere, loro hanno i contanti, capito? Non è che loro, allora tutti i zingari qua, queste merde, scusando la parola, hanno i contanti, hanno i soldi contanti a prezzo, cioè se tu vai dalla bada, dalla gabizzona in chi un campo nomadi, chi sarà lì, cioè hanno i soldi, comprano le macchine, i soldi contanti, mi segui cosa c'è, cioè questa gente cosa fa? E prendi Gianni. Una mica via che la vorremmo capire, tu che passano anche 30.000 euro in banca. Niente, sono 30.000 euro. E io vado a vedere, 30.000 euro, io 30.000 euro, non so neanche come sono fatti. Vai, fra. Ma loro da loro che rubano. Un giorno sono sceso da mio fratello, e c'era questo, è arrivato questo zingaro, che voleva comprare una macchina. Era la macchina di un cliente. Si è avvicinata e gli ha detto, mi vendi tu quella macchina? Dice, io ti do subito 1.000 euro. 1.000 euro? Una macchina da 15.000 euro, cazzo, me dai 1.000 euro? E mi ha detto, allontanate da in giro, perché è un cliente, chissà, prima mi tocchi a me a pagare tutto. Sì, esatto, sì, perché tu hanno, sono occhioni, tutto quello che vedono, vogliono chi vogliono, capito? Quindi bisogna fare anche attenti a chi si vuole a che cosa, va bene, molto barilla. Qua, in questa zona qua, c'è stato pure che stavano rubando motocoltivatori, motozappe, tringe, di trattore, queste cose. E chi sono? Sono loro, perché? La gente le prendeva, soprattutto nelle case che con i fumetti con le traline, no? Non vedeva segni di macchina, non vedeva segni di niente. Ma non so cosa fa il genere, dici quattro miserabili. Andavano col furgone, con la gruetta, no? Trovavano i segni dei passi, no? Aprivano il magazzino, trattavano le porte, magari vicino alle cose, mettevano una cima, perché hanno un figlio di ciglia, no? Quello, no? Hanno queste cose qui. Strappavano, prendevano la motozappa con la gruetta, da un terreno, da un muro, al cascione, e via. Non lo vedeva nessuno. Sì. E a chi? A pure a ramo, tipo gornicioni, queste cose così, tubi, da rifacciati, non so vedere che ne rifulano queste cose. Allora, tutto loro fa loro, si apprendono, hanno queste gruette, loro hanno conosciuto questa cosa delle gruette, e intanto la polizia li ferma, non li fa niente, se non c'hanno revisione, non c'hanno nulla, quindi possono portarle. E ciccia, compreso, e te ne vuole di tutto, vai già. Una volta ero lì a Ponte Pizzino, ero per di gioco anch'io, ero di permesso, e ho fatto acqua lì a Ponte Pizzino, era sempre meno di gioco, e poi sono sceso verso il canile lì, no, dove c'è il canile, c'è lo centro, e ho trovato gli zingari che si stavano rubando, erano un giorno di mio festo, io farò la domenica. Stavano rubando la sabbia e mi mandavo. Cazzo da dietro. Sì, sì, io sono la massa di ladri. Sono la massa di ladri, poi fanno qui, se tu dici qualcosa a queste donne, non fanno queste medicine strane dell'occhio, queste medicine della mala sorte, di fibrosi, di tutta la sacra, di mala di non so fa tutti i vasi di chirriti macumba, di chirriti mulù, e sono, guarda, sono proprio gente brutta. C'è un tipo, se c'è questa famiglia portatore che gira con un camper, un boccato con un camper, mi pagherà dei figlioli, ma avrà 10 figli dentro questo camper, un camper tutto vicio, tutto per finire tutto quanto c'è, lo fanno, e dice che c'hanno una barca di soldi questa gente, una barca di soldi perché commesse della Lidl, delle cose, no? Vanno a comprare roba, vanno a comprare carne e pagano con i soldi in contanti, mi sente? Poi non lo so, se non se la rivendono quella roba da mangiare, perché è impossibile. No, loro i soldi li fanno da loro che rubano, se lo fanno sciogliere, oppure vendono le catenine. A me una volta lo zingaro, c'è una catena tipo quella che usano i magnaci con le croci grosse, con una catena che varia una catena di gani, non di grosso, tutta d'oro al collo, sicuramente l'ha fatto sciogliere, se l'ha fatta fare, no, la catenina. E mi ha detto, se tu mi dai 1.000 euro te la do. E ho detto, vai, io non ce li ho 1.000 euro, mi fai un assegno, sì, così faccio a pari subito per morire di rimanere. E allora, sì, perché poi sono accusati di riciclaggio, sono associazioni a delinquere, fanno truffe, quelle truffe che ci sono in giro non sono loro, tutte quelle di Borsellino, c'è una stazione a Milano, tutto, non so, sono tutto loro, sono tutto rumeni, tutto Milanovic, Escovic, Maldovic, mamma mia, non mi voglio ne vado da mare, tutte queste cose qua. Fanno anche truffe, sono i ragazzi che usano internet adesso, fanno truffe su internet, perché sono loro, poi non gli fa niente, perché hanno conti rumeni, numero di telefono intestato a magari quello che gli hanno rubato il telefono, li hanno mollati e fanno truffe con quei numeri. E bisogna stare attenti, non te li fa. No, quelli usano schede usa e getta, di quelli le usano una volta poi non le usano più, poi li buttano via le schede, i numeri usa e getta li chiamano quelli. E intanto una scheda costa una cazzata, costa. E loro fanno così, fanno. Prendono le schede, forse compreranno anche il telefonino di quelli usa e getta. E allora, ma i telefoni rubati, pure i telefoni trovati, i telefoni accumulati, quelli che dicono, come ci ho visto quante volte su Facebook, non so se c'è Facebook, dice compro telefoni di ogni tipo, però da fa, ma li aggiusta e usano per fare queste truffe, oppure quando li fanno svuotare qualche cantina e trovano i telefoni vecchi, abbiamo tutti qui, e per prima fare che truffe, con schede vecchie, con schede di qualcosa, ma magari ce n'è qualcuno che è ancora attivo, la ricaricano e ciccia. Ecco, va la truffa, poi anche se spendono 20 euro per fare una truffa, ne incassano 1.000-1.500 e si hanno ripagato tutto il materiale. Eia, le uscie. Sai, io un giorno ho comprato su internet, ho comprato un abitatore per i bolloni per la macchina, no, mi avevo comprato nuovo però, c'era questo sito, era nuovo, costava, no, al posto di pagarlo per dire 120-150 euro, l'ho pagato sulle 80, sulle 75-80 euro, mi sembra che adesso non ricordo bene. Oh, sì, che l'abitatore mi è arrivato, un abitatore che non era nuovo, era usato, tutto il ballato, non funziona, ma non ha mandato delle batterie che non ce la fa neanche a farlo girare, capito? Come sono andato, dopo che ho visto così, sono andato al sito di nuovo, non c'era più quel sito, sparito. E allora, sono siti che aprono al momento, tutti fregano magari, cosa ne so, 100 persone si hanno incassato se ne è alzato 7.000 euro in quel momento, poi mi dice non si può, ma nel giro di un paio d'ore. Allora loro fanno questa cosa qua, loro si basano tutto sulla spedizione. Per esempio, io mettono in vendita questo abitatore qua, hanno a me buscano 100 abitatori no? Usati, di come ha fatto a te, che non funzionano. Poi non lasciano questo sito vivo 3 giorni, no? In questi 3 giorni cosa fanno? Vendono 70 abitatori, 80 abitatori, va bene, come hanno preso, come hanno venduto, fanno, loro ti rilasciano la spedizione, no? Loro ti mettono un sito e spariscono. Come ti arriva? Come ti arriva? Come dà la butidura? Perché loro non è che ce l'ho, loro non è che, perché poi si fanno fare tutto tramite bonifico, mi segui. Quando ti mandano la spedizione tu vedi il peso reale della spedizione, ti mandano la foto e vedi il peso reale, dici caspita qua l'abitatore c'è veramente. E allora lì il bonifico non lo puoi bloccare dopo che passa il giorno lavorativo. E allora prima dopo che passa questo giorno dove tutti quanti hanno fatto il pagamento, e non ne spariscono. E come si arriva tu? Se li vendi in esempio a 70 euro, 7.000 euro, avanza, ti arrendi, lo prendi già. Ricordatevi una cosa, non pagate mai con la carta West Union, a me hanno rubato 200 euro. No, di quella già non ne ho, io sono troppo, anzi scaduta anche adesso, la posso aprire. No, no, loro, ti dicono, mi fa il pagamento sulla West Union, a me hanno fregato 200, a Claudio lo stesso, a Maestrale altri 200, insomma, se hanno fatto i soldi di solo da Sassa, è arrivato roba di 900 euro. Sì, vabbè, no, bisogna solo prendere e fare il bonifico normale tramite banca, quando vedi fare un bonifico, però ma te ne accorgi quando te ne accorgi già, perché vabbè, perché infatti io sto comprando solo su tutto subito, quando è sto comprando su tutto subito tra privati, se mi mandano la roba la provano, se va bene subito gli mando il soldo loro, se non va bene gli mando la recensione negativa e subito 3 giorni ti risarcisci i soldi dopo che tu hai fatto la spedizione. Mi segui? Quindi no, al momento questa cosa qua è sicura, poi tanto ci sono sempre tutorial in giro in rete, se nasce la base tu fa su questa cosa qua si vorrà sapere, però per il momento è la cosa più sicura. Sì, lo so che è così, Gabi, però io non è che sono stato sprovveduto, sono andato sul sito, ho controllato le recensioni ed erano tutte positive, addirittura era West Seller, praticamente ci aveva non so quante stelle, mi pare 5-6 stelle, cioè a fondo scala le stelle, tutti quanti che mettevano recensioni buone, eccetera, eccetera, tutto fatto da loro, perché io sono andato alla polizia postale e mi hanno detto che loro fanno così, hanno questa carta come ha detto Franco, ti chiamano, no? Tu dice devi fare subito il versamento, e noi abbiamo fatto il versamento perché questo qui diceva di avere due Galaxy fondo di magazzino mai venduti, mai usati, in scatole e ci dava anche due microfoni amplificati perché stava chiudendo il negozio, quindi c'erano questi microfoni, ce l'avrebbe regalato. Allora noi abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo girato tutto, però prima ci siamo informati, siamo andati, hanno fatto tutte le cose per bene, insomma, hanno fregato in pieno. Sia io che Maestrale ci piaceva Galaxy, se ordinarlo nuovo per noi era il massimo, capito? Quindi se l'abbiamo ordinato, addirittura è andata la moglie di Maestrale a fare il pagamento. Fatto sta che ha fatto questo pagamento e non sono mai arrivati, capito? Sono mai arrivati. Siamo andati alla polizia postale, ci ha detto che stanno fregando un sacco di gente che lo sanno che prima o poi li metto di ferri, però sino a quel giorno lì loro fanno vita da mababbi, guadagnano fior di quattrini al giorno, stanno in alberghi 5 stelle, hanno donne, champagne, macchine grosse, cosa fa? fanno? Si trasferiscono da un posto all'altro e fanno per le loro tracce, dopo che ritirano i soldi se ne scappa. Lo so già, lo so. Fanno una vita da una vita da fuggitivi, non so di tasca, è vero. Però che la facciano sempre bene, perché poi quando inizi a prendere, a fare, perché ti puoi trovare anche in situazioni un po' strane, ti puoi fare la persona sbagliata. Avanti fra. Ecco, ma sai, io la fregatura l'ho presa proprio bella, l'ho presa da Napoli, infatti io non compro più da Napoli. C'era arrivato, c'erano due forattini dentro, c'era. E dal giorno, come vedo Napoli, era grotta, non ne compareggio più. Grazie forattini. Sì, bella, funzionavano. Certo, funzionava. E alla grande. E non ero manco proprio niente, se non avevo saltato. 150 euro la volta, una radio stavo prendendo, Oh, ragazzi, non lo conoscete voi questo microfono, voi che siete più, ma non più vecchi, ma che ne sapete più di me, ma che ci serve se siete più vecchi. Lo Shure, un microfono CD, uno Shure 444D, microfono amplificato, preamplificato. Ma qual è quello che c'ha, che grande c'ha la parte di sopra quadrata, dove parte? Ha un tastino rosso in alto a sinistra. Sì, ho capito qual è. Sì, l'ho visto, ma non l'ho mai avviato. Tu fra, lo conosci? No, ma no, non l'ho mai visto. Io ho quello sempre a tavolo. C'ho lo Shure, sto modulando adesso. Però c'è il coso della manopola a destra, su, c'ha sotto, non so cosa, come si chiama, dopo te lo leggo. Il tazzino rosso, e poi la portante, diciamo, davanti, e si aggancia, diciamo, il cavo si aggancia da davanti e va a finire, invece di avere l'uscita del cavo davanti, ma dietro ce l'ha davanti. Vogliono 70 euro, lo vogliono 70 euro a Bari. 70 euro a Bari, sembra anche nuovo. Sono microfoni di vecchia era, anche se sono nuovi, sono sempre di vecchia era, c'ho sempre il tempo che trovano io, guarda. No, il tavolo più 3 l'ho dato perché le lamelle si spostavano, si inclinavano, dovevi stare a regolarlo, un po' funzionava un po', ma alla fine mi sono rotto le scarpe e giù. Sì, Franco. Questo è il modello 526 serie 2. Ho capito, 526 serie 2. Questo qua è il 444D. 444D. Secondo me con Superfago 3009 questo qua va bene il microfono. Beh. Io sono riuscito a farlo funzionare, e prima non funzionava, aveva problemi a capo, che c'è il capo originale ancora, ed è molto molto vecchio. No, ma c'è bene un microfono, almeno qua mi sta arrivando la scheggia, qua è bello, non ha problemi, una bella modulazione. Però sì, è bello, Gianni, confermi. Ho detto, fa una bella modulazione sul microfono che sta usando Franco stasera, non è male. No, ma è amplificato, è poca amplificazione. L'amplificazione è quella che per me questo microfono, io non lo so se è amplificato, perché nella radio è tutto, l'amplificazione è tutto al massimo, poi non lo so. No, è bello chiaro, capito? Ma non è che è un po' più di tanto, capito? Forse tu ce l'hai basso, non lo so. No, ce l'ho al massimo. E è così, mai toccato, perché ho detto questo era il microfono che ci aveva quell'amico mio, sempre attaccato sempre a questo Galaxy, e ci ho rimesso questo.